Le parole missione, associazione e positività mi avrebbero dovuto mettere in guardia. Ma ero sinceramente felice per lei. E poi per una volta avevo deciso di dare fiducia al mondo. In fondo l'amore ti regala anche questo, no? Io sono qui. Io sono qui. Di Matteo Caccia. Sono le 16:06 minuti, questa è Radio 24. È martedì 18 gennaio 2011. Sono Matteo Caccia e sono qui. Immaginate di avere tra i 20 e i 30 anni. Immaginate di esservi diplomati, laureati e masterizzati. Avete fatto un anno all'estero, avete imparato una lingua, oltre alla vostra ovviamente, e poi siete tornati a casa. Avete fatto un master, lo avete pagato perché funziona così. E poi avete iniziato a cercare. Immaginate di avere tra i 20 e i 30 anni, di avere un appartamento in affitto insieme ad altri studenti, oppure di vivere nella stanza dove siete cresciuti, che avevate abbandonato per andare a studiare, quella di casa vostra, di casa dei vostri. Cominciate a studiare il modo migliore per scrivere un curriculum, per far sapere chi siete e quello che sapete fare. Che è poco, però d'altra parte quello che vi hanno detto di fare, studia, prendi un pezzo di carta, altrimenti lavoro non lo trovi. Ora però, ora che il pezzo di carta ce l'avete, non basta. Perché quello che vi chiedono è esperienza. Perché, sai com'è, non posso mica assumere una persona che non ha mai provato davvero questo lavoro. Immaginate di cercare ogni giorno annunci di lavoro sui siti di tutto il mondo. Di spedire mail in cui scrivete «Il mio profilo è perfetto per la figura che cercate». Immaginate di aspettare che suoni il telefono, che arrivi una mail. Di poter andare a fare un colloquio. E poi di trovarvi di fronte dei signori attempati e annoiati. Persone che sono lì, ma potrebbero essere ovunque. Persone che vi dicono le stesse cose che sentite da quando sentite parlare di lavoro. Che c'è crisi, che bisogna tagliare, ottimizzare. Che adesso non ci sono soldi, ma che domani poi si vedrà. Persone che siedono dietro alle scrivanie, che hanno tutti le stesse facce. Le facce che assomigliano a quelle dei tizi che vedete in TV. E vi ritrovate a pensare, ma questi non vanno in pensione. Non si stancano. Non muoiono. Immaginate di sperare che in questo paese si alzi il tasso di natalità solo per poter sfruttare il periodo di maternità di qualche madre per fare 10 mesi di lavoro retribuito. Immaginate di avere tra i 20 e i 30 anni, di essere arrabbiati e quasi di non sentirvi nemmeno in diritto di esserlo. Immaginate di essere uno stegista. Ecco, la puntata di oggi è dedicata a voi. E il numero è sempre quello, è 800240024 349-238-6666. Mi basta alzare gli occhi nello studio qui di Via Monterosa 91 di Radio 24 per vedere negli occhi un esempio di stagismo impersonificato da Viola, la nostra assistente dall'inizio di gennaio. La puntata di oggi è dedicata a tutte le persone che come lei stanno facendo un lavoro che non è esattamente un lavoro, però un po' si avvicina, però lo senti come un lavoro, però di fatto fai le cose che ti fanno fare al lavoro, ti alzi la mattina, torni la sera e sei stanco più quanto una persona che lavora. Ecco perché oggi vorrei sentire solo persone che stanno facendo uno stage. Vorrei sapere da voi quante ore fate, che lavoro fate, per chi lavorate, quanto durerà il vostro stage, soprattutto quanto prendete, se lo prendete. 800240024 349-238-6666. Come tutte le cose in cui c'è un mondo dietro, poi nascono i siti e nascono i libri. Ne abbiamo consultati alcuni prima su internet e ho scoperto che c'è un sito che si chiama La Repubblica degli Stagisti, che è molto molto frequentato dalle persone che fanno questo tipo di attività, che poi non è un'attività, sembra quasi più un'applicazione. E io ho un'applicazione per diventare uno stagista sull'iPhone. Insomma, questo sito si è inventato una cosa che non è riconosciuta da nessuno, però è divertente quantomeno da leggere, è interessante. Si chiama la Carta dei diritti dello stagista. Sono 9 punti che credo tutte le persone che fanno uno stage dovrebbero leggere, quantomeno per avere un'idea, anche se poi, ripeto, nessuno, non è che se arrivi con la carta dei diritti dello stagista qualcuno ti dà credito, semplicemente hai idea di cosa stai per fare. Punto 1, gli stagisti devono essere giovani e non devono avere significative esperienze lavorative precedenti. Almeno il 30% degli stagisti accolti dalle aziende deve essere scelto tra gli studenti universitari. 2, gli stagisti devono essere pochi perché a ciascuno possa essere assicurata un'adeguata attenzione dal punto di vista formativo. 3. Gli stagisti non devono essere utilizzati per rimpiazzare persone in malattia, maternità o ferie. 4. L'esperienza dello stage deve essere concretamente formativa per i giovani. 5. Lo stagista deve poter avere, almeno nel caso di stage svolti in strutture private, una concreta possibilità di assunzione. Dopo lo stage, almeno il 30% degli stagisti ospitati annualmente, qua dicono. 6. Gli stagisti devono percepire un rimborso spese adeguato a coprire le spese vive, vitto, alloggio e trasporti, commisurato all'età, alla scolarità, alle competenze pregresse, all'apporto fornito all'ospitante. Credo che le persone che siano all'ascolto e che magari stanno chiamando, che stanno facendo uno stage, probabilmente stiano sorridendo. 7. Lo stage deve avere una durata adeguata al progetto formativo. 8. L'utilizzo dello strumento della proroga deve essere evitato. In ogni caso, la durata dello stage, compresa dell'eventuale proroga, non deve mai eccedere i 12 mesi. 9. Lo stage non deve essere considerato l'unico strumento per realizzare una formazione. Il sito è La Repubblica degli Stagisti. Perché vi racconto tutto ciò? Perché da qualche giorno, come spesso mi succede, entro in contatto con una realtà e poi la racconto. In questi giorni la persona con cui vivo ha avuto una simpatica sorpresa nel colloquio che è andata a fare, di cui vi ho raccontato ieri. Non era per un posto di lavoro, era per uno stage. 80024 0024 349 238 6666. Se siete giovani mi sembra di no, perché se uno ha 30 anni forse non è più giovane, però facciamo che comunque va bene. Se siete giovani, state facendo uno stage, prendete dei soldi, non li prendete, comunque state lavorando, oggi la puntata è dedicata a voi. 80024 0024 per gli sms, 349 238 6666. Questa invece è la mia storia. Il colloquio che ieri pomeriggio Natalia ha sostenuto per un'organizzazione non governativa che si occupa di alimentazione nei paesi in via di sviluppo, soprattutto in Africa, è cominciato alle 6 del pomeriggio ed è terminato alle 10 di sera. Il primo incontro dice già molto sul lavoro che sta per cominciare, però lei è tornata a casa ed era entusiasta. Era certa di aver scoperto cosa vuole fare nella vita e chi sono io per darle fastidio e riempirla di dubbi. Ecco perché alla fine sono stato zitto e ho gioito con lei. Lei non ha smesso di raccontarmi quanto fossero interessanti le persone che ha conosciuto, quanto importante fosse la loro missione, che bella fosse la sede dell'associazione e che senso di positività avesse riempito l'atmosfera dell'incontro. Ecco, le parole missione, associazione e positività avrebbero dovuto mettermi in guardia. È solo che io ero sinceramente felice per lei e poi per una volta avevo deciso di dare fiducia al mondo. In fondo l'amore ti regala anche questo, no? Ti fa venire voglia di credere che i sogni si possano veramente realizzare e che ciò che desideri, se non stai ben attento, davvero lo potrai avere. Io ad esempio ho Natalie e lei è certa che avrà il lavoro della vita. Le hanno detto che l'avrebbero fatto sapere al più presto, che è una formula piuttosto ripetuta e poco confortante di solito, però la sua fiducia, la sua forza abbattono ogni ostacolo. Quindi ieri sera, perfino io, ero certo che sarebbe andato tutto bene. Lei mi ha raccontato tutto, di tutti i fronti aperti sul territorio africano, quello asiatico, dove la povertà fa vittime per fame e soprattutto fra i bambini. Questo è un argomento a cui io sono abbastanza sensibile, come molti, quindi mi sono anche commosso quando tempo fa scoprì che c'è una radio che manda in onda ogni giorno il Requiem di Mozart per ricordare quotidianamente le vittime dello sterminio per la fame. Insomma, ci siamo fatti quasi un pianto insieme quando mi ha mostrato il libro fotografico che l'associazione ha realizzato per documentare i loro interventi. Le immagini che tutti conosciamo, volti sofferenti, corpicini con le mani tese verso la camera, qualche lampo di speranza come una pompa per l'acqua costruita in un territorio arido come non si può nemmeno immaginare. Lei era veramente contenta, mi sembrava compiuta, cioè mi sembrava seriamente compresa nell'idea, nel progetto che le avevano mostrato. Quindi mi sciorinava una serie di termini che aveva imparato nel suo percorso di studi e che in quell'associazione trovava finalmente realizzazione. Insomma, niente da dire. Natalie aveva avuto un gran colpo di culo. Stamattina, quando ha acceso il cellulare e ha trovato una chiamata del tizio che le aveva fatto il colloquio ieri, si è quasi messa a piangere per la gioia. Lei è così. In fondo è per questo che l'amo. Ed è per questo che lei fa bene a stare con me. Perché quando ha chiamato questo tizio, dopo due convenevoli e un gran sorriso, le prime parole che le ho sentito pronunciare sono state: uno stage. Certo, ma certo, capisco. Non remunerato. Sì, chiaro. Yeah. Dovevo dirle che lo sapevo? No. Cioè, dovevo dire alla donna che amo che era chiaro che i suoi sogni si sarebbero scontrati prima o poi con la realtà di un mondo un po' più complesso e meno rosa di come lei se lo immaginasse? No. Io non sono così. Cioè, lo so, però cerco di non dirlo. Poi chissà che non sia lei magari a insegnare a me ad avere un pochettino più di fiducia nel mondo. Questa volta però la faccenda un po' mi puzzava. Anche se, a parte la piccolezza dello stage di 6 mesi non pagato, c'era comunque da dire che il fatto che l'avessero presa era pur sempre una bella notizia. Si trattava di gente seria, su questo ci eravamo documentati. Almeno non rischiava di finire a vendere assicurazioni false, ad esempio. È solo che la telefonata continuava e stava diventando un po' lunga. E il sorriso di Nathalie si stava un pochettino spegnendo davanti ai miei occhi. Ma lei è una tosta. E quando è finita la chiamata mi ha guardato e mi ha semplicemente detto: mi hanno presa. Ora, lo stage è una trovata brillante delle aziende italiane e non solo, per fare lavorare gente senza doverla pagare. Detta così è un po' brutale, però sfido chiunque a provare a convincermi del contrario. Certo, in cambio i lavoratori hanno la possibilità di fare un'esperienza professionale e tutte quelle cose, e questo rende lo stage un momento formativo molto importante per un neolaureato o comunque per un giovane. Ma rimane il fatto che si tratta di lavorare gratis. Non è che io abbia mai amato tantissimo questo genere di meccanismo. Il caso di Nathalie è complicato dal suo carattere esuberante e dal contenuto del lavoro. Ed ecco che ritornano nella mia mente quelle due parole: missione e positività, che in questo momento sono il miele sulla medicina cattiva. Sono il senso del tuo lavoro, perché queste cose mica le puoi fare per soldi, no? Voglio dire, la gente muore di fame e tu per salvarla vuoi essere pagato? Se no, cosa fai? Non la salvi? Allora sei veramente una persona schifosa. E poi vuoi mettere quante energie positive puoi trovare in questa missione? Io non lo so, Nathalie poi era contenta stamattina quando le hanno detto che se voleva poteva cominciare a lavorare oggi stesso. Io probabilmente non lo sarei stato, ma questo è lo stesso motivo per cui io la amo e sto con lei. Allora, c'è una raccolta fondi straordinaria per l'emergenza Congo. Ci sono dei banchetti nelle strade di Milano per raccogliere dei finanziamenti. Anche il presidente dell'ONG, sezione italiana ovviamente, un tale Maurizio, di cui non è stato pronunciato il cognome, sarà lui stesso in strada al freddo con una pettorina a chiedere soldi per la causa. Non è divertente e occorre essere molto motivato per una cosa del genere. Nathalie lo è, motivata, ma per finire di convincerla le hanno detto che una percentuale dei fondi raccolti dalla beneficenza, non so quale per la precisione, se lo sarebbe potuto tenere, insomma, come fanno tutte le sue colleghe. Questo è l'unico modo che hanno per poterle remunerare, perché lo sanno che questo è un lavoro duro e che stare al gelo a chiedere soldi non è facile. Beh, devo dire che questi qui ci sanno fare. Nathalie oggi è per strada a chiedere soldi alla gente che passa ed è felice per ora. Mi pare già un bel risultato, no? So che c'è un sacco di roba da fare, mi fa un piacere però, mi stampi la scaletta della puntata di oggi e poi avrai queste robe qua, mi puoi fare una fotocopia e ti mando anche un file, tanto non c'hai tantissima roba da fare. No, giusto? No, non ti preoccupare, tanto non devo fare nulla, devo sistemare le scalette, fare l'assistenza diretta, rispondere alle telefonate, io sono qui, sì. Devo poi chiamare gli ascoltatori per registrare la scaletta delle foto, sempre per il tuo programma, poi devo tradurre le interviste per la Rosa Purpurea, la CIA delle canzoni di Io Sono Qui, la intranet, il taglio del web per la puntata di oggi, ascoltare le clip audio che mi manda sempre d'assisti per la Rosa Purpurea, devo fare spiegherare le voci, il testo di Voci d'Impresa, farlo montare e poi ho anche... Perfetto, alle 4 in onda allora. 800240024, ringrazio Viola, che a cui prima abbiamo strappato questa piccola registrazione mentre stava lavorando. Viola comincia di solito alle 6 del mattino, finisce verso mezzanotte più o meno. Ringraziamo Viola per il suo lavoro, tutta la radio la ringrazia, peraltro ormai Viola è integratissima soprattutto nella nostra redazione. 800240024 349 238 6666. Prima vi ho citato un pezzo della Repubblica degli Stagisti, che è un blog che è stato creato da una stagista ovviamente, che si chiama Elena Voltolina. Questo blog, un po' come tutti i fenomeni di costume, è diventato un libro. È un libro che è pubblicato dalla Terza e si chiama appunto La Repubblica degli Stagisti. Ci sono alcuni passaggi che raccontano in maniera abbastanza precisa com'è la vita di uno stagista. Questo, ad esempio. La condizione di stagista è temporanea. Questa è la caratteristica che la rende sopportabile, ma è anche il suo tallone d'Achille. Tanti giovani attraversano nella loro vita un periodo da stagisti, lo patiscono, magari lo maledicono, ma sempre dicendosi è solo per poco tempo. Quanto poco non è dato sapere però. 3 mesi, 6 mesi, 1 anno, talvolta anche di più. Ma sempre ripetendosi tra un po' ne sarò fuori, mi faranno un contratto vero, tra un po' ne sarò fuori, smetterò di essere solo uno stagista. È questo che depotenzia la battaglia. Il fatto che quasi tutti, mentre sono stagisti, mirano solo a uscire dal tunnel degli stage e quando finalmente ce la fanno, dimenticano alla velocità della luce quello che hanno passato. Così il problema dello stagismo viene preso sotto gamba non solo dalle istituzioni, ma anche dalla società. C'è un po' di quella voglia di lotta e di battaglia che sta un pochettino quando si sta da quella parte della barricata, poi quando si va dall'altra di solito le cose cambiano. Però è un libro interessante, vi ripeto, si chiama La Repubblica degli Stagisti. Al 349-238-6666 Elisabetta mi scrive: anche il sito Diversamente Occupati di Arnold merita. E allora, se merita, andiamo a guardarlo. Sembrava andatevelo a guardare, nel senso che se merita lo si guarda. Stage, le gallerie di Milano prendono giovani per stage insegnando loro poco o niente, utilizzandoli come magazzinieri, senza alcun rimborso, neanche il biglietto del tram. Federica. Oggi invece mi è arrivato un messaggio simile a quelli che sono arrivati qua, e che tra l'altro è stato il messaggio da cui ho scoperto che esisteva una carta dei diritti dello stagista e un sito che si chiamava La Repubblica degli Stagisti. È un messaggio di Silvia. Pronto, Silvia? Ciao Matteo. Ciao, come stai? Bene, grazie. Tu? Senti, io sto benone. Senti Silvia, allora raccontaci un po', tu innanzitutto quanti anni hai, allora, in cosa ti sei laureata, se ti sei già laureata oppure no, e quando hai fatto il tuo stage? No, io sono giovanissimo, ho quasi 22 anni, per cui non sono ancora neanche laureata. Ok. E hai già fatto uno stage però? Sì, sì, perché il mio percorso di studi prevede obbligatoriamente lo stage. Che cos'è? Che studi stai facendo? Io mi devo laureare in lingue per il commercio internazionale, per cui abbiamo l'obbligatorietà di uno stage in un'azienda che tratti con l'estero praticamente. Ok, ma scusami, è una facoltà che ha a che fare con lingue, immagino, però una specializzazione, sì, in commercio internazionale. Esatto, noi facciamo esami di marketing, tutte queste cose, insomma. Ok, raccontami dello stage invece, quanto è durato e dove, se non vuoi fare il nome, allora, dell'azienda, chiaramente lo capisco, però sì, più o meno di, no, di cosa si tratta? Allora, un'azienda che si occupa di arredamento e ha vari contatti con clienti esteri, eccetera, eccetera. Io ho fatto il mio stage a settembre. No, l'esperienza, come ti ho scritto nella mail, è stata bella perché, a differenza di tanti altri che magari, come vedo anche su Facebook, devono fare le fotocopie, devono portare il caffè, eccetera, no, io effettivamente ho usato le mie competenze. Ok, quindi quello già direi che è buono, no? Il fatto di non dover, no, fare il galoppino, ma quantomeno dedicarsi a fare una roba che è la cosa che si vorrebbe, no, certamente, fare. Certamente, questo è assolutamente vero. Però poi leggi la carta dei diritti dello stagista e dici retribuzione minima, tutte queste cose che io assolutamente non ho visto. Quanti soldi hai preso, Silvia? Zero. Quanto lavoravi al giorno? 8 ore al giorno. Ma e facevi il lavoro che facevano gli altri impiegati? Sì, loro avevano bisogno di traduzioni, di traduzione delle loro comunicazioni aziendali, dei loro ordini, e quindi... Cioè, io il lavoro l'ho fatto, però. Senti, altrimenti non l'avrebbe fatto. E com'è finita? Che tu sei tornata all'università per finire il percorso di studi, giusto? Sì, certamente lo stage era solo un periodo. E adesso quali stage hai in programma per il futuro? Non lo so, guarda. Non lo sai, nel, no, senso che non adesso... sei ancora cercata, guardata in giro? No, beh, adesso ho in programma di laurearmi, poi insomma vedrò. Speriamo di non essere. Su che cosa la fai la tesi, Silvia? Non lo dico per scaramanzia. Va bene, quanto hai copiato da Google per la tesi? Zero, sono brava. Solo per fartelo sapere, ci sono professori che io conosco personalmente che così, random, pigliano dei pezzi delle tesi dei propri allievi e le sbattono su Google per vedere dove le hanno prese. Stai all'occhio. Silvia, grazie mille, in bocca al lupo per i tuoi stage e per i tuoi lavori futuro. Ciao, grazie mille. Ciao a te. Adesso la borsa e poi 800240024, io sono qui. Io sono qui. Nella foto di oggi siamo in un hangar gigante. Non è un hangar però per aeroplani, è uno scavo archeologico chiaramente, e credo che più o meno tutti, vedendo anche solo un angolo di questa foto, capirebbero dove siamo. Ci sono decine, forse centinaia di statue in fila, come se stessero marciando, come se fossero immobili in attesa di qualcosa. Sono una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto file, ciascuna composta da quattro persone. Hanno una sorta di abito che gli arriva fino a sotto le ginocchia e hanno dei lineamenti orientali. Francesca Sartori, 35 anni, l'esercito di terracotta di Xiang. Non vi fa pensare alla fine dei predatori dell'arca perduta? Io sono qui. La foto è sul sito, come al solito, è radio24.it, la pagina Io sono qui. Invece sul profilo Facebook, che è Matteo Caccia Io sono qui, trovate tutto quello che non si racconta in onda e anche un po' di più. Che non vuol dire niente, però è semplicemente un modo per invogliare ad andare sul profilo Facebook. Non è che si possa sempre dire qualcosa che ha senso, giusto? Andiamo però da Andrea di Roma, perché prima ci ha scritto una cosa che era esattamente quello che noi volevamo. Pronto, Andrea? Buonasera Matteo, ciao. Come stai? Bene, bene, tutto bene. Allora, tu sei esattamente lo stagista che noi cercavamo. Il profilo che hai disegnato, esattamente. Raccontami tutto. Guarda, io mi laureo a dicembre 2009 in economia aziendale alla LUIS. La LUIS, ricordiamola, è un'importante facoltà di Roma, okay. Della nostra, sì, okay. Villa Confindustria. Su che cosa? In che cosa? Tesi di laurea? Economia aziendale e indirizzo marketing. Ma il titolo della tesi ce lo vuoi dire? Sì, esattamente, non ricordo esattamente, vabbè, si svolgeva, era direttamente su un settore, il settore della tesi. Andrea, il titolo della tesi. Il titolo della tua tesi, non puoi non ricordartelo. L'Outdoor TV. Oh, bravo. L'Outdoor TV. Ok, a quel punto? A quel punto entro in un'azienda per uno stage trimestrale, che poi dopo si proroga per altri tre mesi, finisce questo stage in una società di revisione e da lì non mi fanno più sapere nulla, appunto, per poter, appunto, entrare direttamente come apprendista o come contratto a tempo determinato. E adesso, Andrea, dove sei? Cosa fai? Adesso nulla, sto facendo molti colloqui in varie aziende, consulenza, revisione, comunque ciò che mi interessa. E più volte vengo richiamato per fare altri step, perché li passo, ma non viene proposto nulla, assolutamente. Quanti anni hai, Andrea? Ricordamelo, per piacere. 26. 26. Senti, quanto prendevi per lo stage precedente? Circa 500 euro al mese. 500 euro al mese, che sono pulite, mi auguro, giusto? Sì, arrivano secche secche. Senti, dimmi qual è l'ultimo colloquio che hai fatto. È stato prima di Natale, il quale, appunto, poteva essere molto interessante. Li ricontatto proprio oggi via mail e mi dicono che non ci sono posizioni aperte, pur avendo fatto comunque tre colloqui, uno di fila l'altro, perché mi hanno richiesto proprio loro la candidatura. Andrea, ti faccio un sacco di in bocca al lupo. Chepi. Ciao, alla prossima. Ciao, grazie. Ma tu che cazzo sei? Io sono Alessandro, il nuovo stagista di regia. No. No, tu da oggi in poi ti chiamerai Seppia. Ho svolto uno stage di 205. Questo era Boris, ovviamente, per chi non l'avesse mai visto o sentito. È un vabbè, insomma, per chi non lo sapesse, è un piccolo, è una piccola fiction di culto che va su Sky, ma credo anche adesso sulle reti libere. No, non va su Mediaset. No, non va su Mediaset. Vabbè, insomma, se vi capita, guardatevelo anche su internet. Andate su YouTube, scriveteci Boris e vengono fuori cose divertenti. Ho svolto uno stage di 250 ore presso una testata giornalistica come grafica editoriale, senza nemmeno alcun rimborso spese. Ora ho firmato un contratto da stagista per tre mesi a 400 euro al mese presso un business center. Nel frattempo aspetto di poter fare il lavoro che mi piace, cioè la grafica. Sara da Roma. Andiamo invece da Francesco a Milano. Pronto, Francesco? Pronto, buongiorno Matteo. Ciao, buongiorno. Dove sei, Francesco? In macchina? Io sono in macchina, sì, sto proprio tornando a casa dal lavoro. Cosa fai, Francesco? Io prometto che mi sono laureato a settembre 2009 in ingegneria biomedica, sì, al Politecnico di Milano, sì, con un voto piuttosto basso. Purtroppo ho avuto una carriera universitaria un po' travagliata. Raccontami del tuo stage, Francesco, così andiamo subito al punto. Esatto, vai. Il mio stage è stato di sei mesi, pagato a 300 euro al mese, è stato veramente duro. Quanto lavoravi al giorno? lavoravo, allora, canonicamente 8 ore, però spesso e volentieri si sforava e Non ti hanno nemmeno proposto un prolungamento, un'assunzione? No, io, guarda, subito dopo lo stage mi hanno commutato subito in un programma progetto, quindi già è entrato in una dimensione diversa la situazione, e poi successivamente sono stato assunto a tempo indeterminato. Ah, quindi, quindi scusami, adesso sei assunto, Francesco? Io sì, sono assunto, mi ritengo un fortunato, devo dire che ho trovato un'azienda che ha saputo valutare la persona. Francesco, guarda, ti sento un po' male, però sono contento per te che hai trovato un lavoro, ti faccio in bocca al lupo per tutto, buona giornata. Sì, ciao, grazie. Rimaniamo a Milano e andiamo da Adolis. O Adolis, pronto? Pronto, sì, pronto. Ciao, sei Adolis o Adolis? Adolis, Adolis. E che nome è Adolis? Un nome eritreo. Un nome, perché tu sei originaria dell'Eritrea? Mm-hmm. Ok, perfetto. Quanti anni hai, Adolis? Io sono rispetto agli altri ragazzi over. Ho superato l'età di Italia, però lo devo, cioè, spero di fare uno. 32, diciamo. 32, ok, perfetto. Senti, domani tu hai un colloquio. Sì, sì, un colloquio, però sono felice perché prima è nell'area che mi interessa, diciamo. Che cos'è esattamente Adolis? Diciamo produzioni audiovisive, mettiamola così. Beh, come mettiamola? È così o non è così? Sì, sì, è così. Tu, no, per dire. Tu cosa hai studiato? Beh, io sono una storica magistrale, quindi... Sei una storica? Sì, sì, una storica. Ma hai studiato proprio storia pura? Sì, sì, storia, storia. E poi com'è che uno che studia storia si mette a fare produzioni audiovisive? Sì, sì, da sempre comunque voglio fare la filmmaker, sono una filmmaker. Ah, ok, ok, perfetto. Senti, ma tu sei in Italia da tanto? Sei nata in Italia? No, sei... Da quanto? Sono nata a Milano, sono cresciuta a Milano. Ah, quindi... vabbè, ok, sei semplicemente di origine, cioè il nome, chi è, il babbo, la mamma? Io sono una G2, una seconda generazione. Una seconda, com'è che sei definita, scusami? Una G2. Una G2. Senti, mi dici il nome della società, mi piacciono sempre i nomi delle società televisive. Non so se lo posso dire, diciamo che è una non so se lo posso dire. Ma non dirmelo, dimmi cosa fanno però. Beh, no, programmi televisivi per sapere, adesso che c'è il digitale si è aperto, cioè, secondo me c'è più spazio per sperimentare. Hai fatto qualche cortometraggio tu, Adolis? Sì, migliaia. Sì, dimmene uno che lo andiamo a vedere su YouTube e lo carichiamo sul profilo. No, non li ho caricati. Come non li hai caricati? Perché, allora, alcuni sono autoprodotti, quindi non sono proiettabili, perché non hanno la qualità. Però, non lo so, gli altri non ho i diritti, quindi... È vero che una delle qualità dei filmmaker è quello di essere un po' timidi, Adolis. Ti ringrazio molto e ti faccio in bocca al lupo per domani. Ciao, buona serata. Grazie mille. Voglio concludere con la lettura di un altro piccolo pezzo tratto da questo libro che si chiama La Repubblica degli Stagisti. Io di stage ne ho fatti 5. La prima volta avevo 24 anni e stavo finendo l'università. L'ultima ne avevo 28. Una laurea, un libro e un praticantato giornalistico alle spalle. Non ero un tantino troppo qualificata per fare la stagista. Qualcosa scricchiolava. Intorno a me, amici e conoscenti passavano da un tirocinio all'altro. Sempre più di frequente alla domanda «Hai trovato un lavoro?» la risposta era «Comincia la prossima settimana uno stage». Qualcosa scricchiolava. Sempre più forte. Da una parte gente laureata, spesso vicina ai 30 anni o addirittura oltre, ancora costretta a chiedere la paghetta a mamma e papà. E dall'altra un mondo del lavoro chiuso, diffidente, poco disponibile a dare un'opportunità. Propenso invece a usare lo strumento dello stage per avere personale a basso costo. Qualcosa decisamente scricchiolava e si è rotto a un certo punto. Grazie a Pietro Lacorte, a Viola Bottoni, a Tiziano Bonini e soprattutto a Stefano D'Andrea. Grazie anche a Matteo che ha telefonato, non abbiamo fatto in tempo a chiacchierare con lui, che è un imprenditore e dice che per lui è vergognoso prendere stagisti senza retribuzione. Domani non lo so, ma oggi io sono qui. E voi dove siete?